Sì, ho anche detto che mi sono e non ce l'ho con nessuno. Non fare che cosa abbiamo fatto. Io parlo per me, gli altri parleranno per loro. Allora, mi sono così, Gianni. Allora, praticamente funzionava così. Che lui si è fatto una ruota sul 40. E poi sul 40, io non voglio rompere le balle a nessuno. Non sono mai venuto a rompere le balle, perciò io me la sto facendo qua. E va bene, buono, so chi se non mi frega niente. Allora, sul 40, io sto andando lì perché sono amici, capisco, non è che la famiglia si chiude tutti anche lì. Per cui io non perché ti abbia con te, ma perché ti sono vero, vado lì. No, ma vabbè, visto comunque che Claudio ha detto che praticamente lì non deve entrare nessuno. Vabbè, io sto entrando, non ci mancherebbe. No, scusa, non ho problemi, io non entro. Ho fatto qua la ruota. Se c'è in me, se non me ne frega niente, tutto qua. Io entro dove c'è gente, caralho, di tutti, per cui, dove c'è gente entro, e devo essere aspettato normalmente, perché non ho fatto niente a nessuno. Mi sono lasciato il fatto che tu, quando ho fatto il break, con una fila, non mi fate mai entrare, entrare, tu la di me, no, non gli ho fatto nulla, boh. No, cioè, non c'ero nessuno, ci mancherò, non ho fatto nulla già, assolutamente. Assolutamente io non... Tu per quale motivo scusa? Non so il motivo, comunque niente, io ho sentito che Claudio non vuole casino. Come se la niente, ma io non... Se prima resto lì, non è un problema. Ma se io voglio rimanere lì, io poi cambio l'idea. Io mi rimango qua, se entra qualcuno bene, se non me ne frega niente. Io rimango lì, vengo qua, io dove si vive, non è dove voglio io, ma quello è dove voglio io, se non devo andare. Cioè, guarda dove voglio io. Non è giusto, se si vive lì andare dove ti pare ti piace, non c'è problema. Ma no, niente, già, non so come funziona, io so più o meno che funziona così. Cioè, se tu vai là, cioè, per me, secondo me, vai là, e stai là, magari la gente che entra qua, che parla con me, ma ti fa entrare. Gianni, mi senti? Sì. Sono Claudio, non ti stai parlando con Luca? Mi senti? Sì, basta, ti sento lì. Non ho antenna, io ho staccato la giglia a Luca, a me di non cercarmi. Io non sto cercando nessuno, fate chiaro amici sia Luca, ok? No, non so cosa scendi. Tu hai detto che c'è giù del 40. Ma per te, se no non me la frega niente, io rimango qua. Le ruote sono suddivise, perciò quelli del 40 sono al 40, io me ne sto qua. Se andiamo ancora bene, se no ci siamo, non ho problemi. Io non so cosa scendi per nessuno, e non voglio essere cercato, tutto qua. Ma no, a me non mi cercare, non le fare nomi miei, io non sto cercando né a te né a nessuno. E sappi una cosa, io ne ho staccato anche l'antenna che non voglio rotture di coglione di nessuno. Chiaro? Quindi non fare il mio nome, non mi cercare, vivi sereno, fai vivere la gente tranquilla e basta, punto, e non aggiungo altro. E sappi che io, Claudio Sparviero, accendo la radio e vado dove cazzo mi pare mi piace, ok? Ma vai, dimmi, cazzo, non me ne frega niente, non me ne frega proprio niente. E tanto che non cerchi a me, poi, però la gente che mi stanno accusando, io sono stato portante. Basta, venite a casa per vedere se sono io metto portante. Ci sto per sapere se è vero se sono io o meno. A me non mi risulta, ma... E allora se non ti risulta vivi e lascia vivere tranquillo e sereno. A chi ragazzo c'è entrato tutto l'ha diritto di persona e te lo continua a dire in radio. E se tu non vedi Gaggino Luca. Quindi datti una calmata che ti conviene. Te lo sto dicendo da amico e boh, non te lo dico più. Datti una calmata, vivi e lascia vivere. Io della radio non me ne faccio un cazzo, ne ho 100.000 di frequenze da parlare. Io antenna la 27, non ne ho più, ne ho staccato il cavo e non mi interessa un cazzo. Sto scendo col dipolo in 40 metri. Vi sto ascoltando, non mi cercate perché chi mi cerca mi trova, eh. Attenzione, punto e basta, non dico più niente a nessuno. Io antenna del baracchino non ne ho più, chiaro? Eppure a me non mi cerca mi trova, non ho più problemi. Non mi devo nascondere assolutamente, per quale motivo? A me basta non mi cercare, a me non mi devono cercare. Ma mi dico, poi che fate di parlare da quando sono entrato io? Dove spiegami questo problema? Dove sono entrato io e che casino, ma da che fatti? Luca, lascia per lì, non è che devi fare polemiche, non è che con nessuno, ok? Ti ho messo punto, quindi io quando ho messo punto non parlo più. Se ho sto dicendo in radio te lo dico anche di persona, e se ritrovo te lo dico di persona. Queste sono le cose che io sento, e basta. Poi tira sulle somme, se per la radio ti devi cazzare, devi vivere cazzo col coltello nella gola, tu sei buono a farlo, io non ci sono buono. Io faccio altre attività radio, entro in radio per rilassarmi e per fare le chiacchiere con gli amici. Il tuo cazzo di radio è un sanamento, era un sanamento prima e continua a essere un sanamento là. Se tu sei abituato a parlare così, parlaci pure, io non sono abituato. Ok, vi saluto, arrivederci a tutti e non mi cercate a me, non fate nomi, perché tanto vi sto ascoltando un qualsiasi tipo di antenna vi ascolto. Perciò a me non mi cercate, io non vi sto cercando. A chi sia da voi, mi tirano un bel balle, allora venire a cercare niente, ok? Basta, non voglio aggiungere altro, A me non mi cercate più. Ma non rispetto, io non mi stavo accorgendo, però mi trova, non ho problemi. Non ho problemi, Claudio, sono grande vaccinato, grazie a Dio, perciò non. Ma se non cerchi da me, quello che malattia lo uso, come non ti mai mi piace, non devi in cura a dirmi il tuo, poi se vengono, me ne sacano tutto, me ne sono avuta, vabbè, pazienza, me la prendo, non me la tutti nuda, però malattia lo uso, come ti mai mi piace, non mi vengono gli altri, uso un uso là, ma con la salute tu non lo vedo, perciò io non voglio essere cercato, punto, mettiamo il punto e via, cioè basta, chiudiamo qua, non me la frega proprio niente, come malattia lo. Non mi piace la mangiare, ne sto approfittando a usarlo, perché negli anni passati non lo potevo usare, adesso lo sto approfittando. Dico non mi rompo le scarpe, però non sta con tutto, non ho più problemi. Vabbè, ciao a tutti. Sei grande vaccinato adesso, fai come se ti piace. Non devo dire a dici che ci devi fare. Ne abbiamo già parlato. Ciao a tutti, ciao Gianni, scusa Ciao, ciao. Per il motivo che io ho fatto casino, ma non c'è problema, io e questo che si è in regola pure, se dormo bene la notte, se ve ne controllo, se sono omologato qua, non sono le linee né niente, non ho più problemi, malattia omologato, non ho quel problema, quando vengo apro la porta e le faccio entrare, non nascondo proprio niente, comunque Gianni, tra le cose di prima, a quanto pare, tu ce l'hai con me. Tu, se non è vero, a me, non so cosa hai visto. Io non ho visto Luca. Io se no, il motivo per cui dovrei essere con te, quanto ti dico di testa, gli scatti, gli avversari, non c'è, sempre di me, non è. Io non trovo come fino. Non trovo come fino. Stavo che così mi ho pensato, e tu, però se non mi ha fatto entrare, sì, sono entrato, ma siccome Gianni il problema è che io mi sono sentito come si dice ma è così pure si è scartato perché quando me non che cagato vedi tu se fa un non c'è problema avanti dai grazie la carina ciao la carina sto bene e io ci sto bene anche di che sta parlando così io sono lo sentito però quando sta No, hai visto, la bocca al mondo. Ti ho detto, voi siete sul 40, se tu sono a dire agli altri, io qua mi facevo parlare, poi mi siete fatto una ruota lì, tutti tu e tutti gli altri amici tuoi. Però state lì, non ve ne è problema, non voglio a rompervi le balle. Ma non so come ho sentito il canale, se non è questa l'avventura, ma se si gode, non c'è un valuta. Io vabbè, comunque si sarebbe specializzato che sia una giornata non me la sa specialare. E dopo questo, perché credo sia, io mi sono andato, guarda, che si incazza a voi, andate a fare niente, mi dice, dunque, davvero, io lo so, non via. Andava via, ha ragione, meglio se c'è un bici di baracchino, perché a me quando mi cercano non c'entra niente, e lui che aveva lo stato, gli ho aiutato e tutto quanto. Però non mi dava le bici di sentire di diritto a me. Io ti cerco di fare una cosa. Da oggi, io non mi vado in via, se non mi lascio più dentro in via. Anzi, ho avuto un tempo di cercare l'antenna, e se la piace io l'antenna, anche se la finissimo, veramente a cercare. Roba la sua, ragazzi, questi amici si mettavano tutti russi. È una cosa, guarda, bellissimo, soltanto per i canini che erano quelli di passaggio, ero qui al computer, stavo lavorando, come tu sai, nelle partite, e niente, ho sentito quanti due canini, che io quando facevo la chiamata, ho appena messo lì, insieme agli altri, ma non ho avuto nessuna risposta, quindi. Thank you. Che tu hai detto che non vuoi rompere il cazzo? Oh, io non, se, non fatto, non sono neanche entrato qua. Non fatto, non sono entrato. Evidentemente ce l'hanno la seconda. Ma tu a chi ti prezzi? Io non so fare l'ufficio di piccati, ma cosa ti prezzi? Io quando al giudizio non voglio all'ufficio canale 40, dico non voglio all'ufficio canale 40. Forse tu non hai capito chi è quello che fa dire. Tu ancora non l'hai capito bene. Io devo a Carletta per che è quello che fa dire. Io se devo dirti a te che qui questo canale non c'è, qui su Luca questo canale non c'è, punto e basta. Io dico in generale che nel canale 40 non voglio casino, è rivolto a tutto Sassari, non è rivolto a te, punto e basta. Quindi queste cose le devi capire perché sei grande macchinato come hai detto e te ne assumerai le tue conseguenze, capito? Perché te le stai assumendo le conseguenze. Il fatto che sei da solo nel canale 10 aspettando chi sei la gente a parlare, questo ti sembra una cosa bella, ti sembra fare radio, ti sembra avere amicizie, secondo me non è così. Claudio, tutto considerato che io non sono entrato assolutamente perché mi sono sentito toccato, diciamo, però visto che tu lo sai con me, visto che mi consigli un amico, che mi considerava un amico, mi considerava pure di me, non è problema, non mi vuoi dire, però potevi dire, ma Luca sono che non sta entrando qua, un po' strano, vuol dire che non mi considera un amico, Claudio. A me mi hanno fatto una domanda un giorno, a buon direttore poche parole, capito? E tu di lì, dove mi hanno fatto la domanda, non mi sa che io faccio la radio e non sia arrivato. Sono 32 anni la radio, segnativo, 32 anni, capito? E mi ha giudito di tutti e di più. A me mi hanno fatto una domanda, da dove di lì? E io ho ricordo queste sessuali parole, ed ero in questo canale, e ha giudito, Luca non c'entra in questo canale, lo puoi trovare sul 21 o sul 10, perché io già ti stavo seguendo a te. Io già ero nascosto, e già qualche settimana che mi sono un po' allontanato dalla ruota, capito? E l'antenna, io, è attaccata, gli ho attaccato il capo, proprio perché non voglio rotture di palle. Io sono nato per fare radio, come dico io, non come dicono gli altri. Se Luca è nato per fare radio come la vuole fare lui, chi è che gli risponde? Claudio Sparviero, Gianni Lopiorrume, Natalino Alfa 1, ma non esiste. Lo farà come vuole Luca e se ne assumerà le stesse conseguenze, capito? Se ne assume le proprie responsabilità. Quindi io, siccome non sono il padre di nessuno, ho sempre dato consigli in radio, perché in questo momento la radio va usata in questa maniera. Poi, chi la vuole fare diversamente, la fa dove non c'è Claudio Sparviero. Questo è il mio discorso, caro Luca. Perché se io dico a Gianni, che Gianni nel mio canale non c'entra, tu sei forchetto, è stato Sparviero, il tuo canale non ti fa entrare. Comunque basta, questo è il concetto di tutto. Comunque, io le radio che le ho, e ne ho tante, e vi ascolto il capo al mondo. L'importante è una cosa, e ve lo chiedo con molta, molta cortesia, a me non mi cercate. Non mi cercate proprio, perché io non sto cercando passi, non mi cercate nelle case, fuori dalle case e camminando per la strada. E soprattutto il radio, perché ci fa il mio nome il radio, io ci sono sempre. Voi toglietevelo dalla testa, io ci sono sempre, sono come Gesù Cristo. Certo, io magari no, perché la sera esco, a meno che sappiamo quando me ne rimango a casa, però anche con chi sono a me mi riferiscono tutto, tutto. Chiedete qualcosa anche per me, che è, non è che qualcosa per me, che se mi conosce la vita, perché no, non c'è problema. Comunque io nome tuo non ne ho fatto, io sono solo questo qua, che mi ha messo il studio alla ruota, questo qua, io non ho fatto niente a nessuno. Va bene, lui dice non c'è problema, lui se ne sono un po' rotti i coglioni, come si, mi state facendo capire, non è un problema, a me tra qualcuno sul 10, sul 21 fanno, perché non fanno, non è un problema, non lo rimango a chi mio, mi butto giù di morale, già ci faccio male, per i fatti miei, perché no, sto qua, io non metto il baracchino, già c'è più motivo, Claudio, non è da te, vedi il culo rosso. Luca, io non ho nessun problema, né con te né con nessuno. Io ti sto dicendo, se mi puoi capire, perché mi sta ascoltando perché non so neanche se con te. Io sto usando un antenino perché è successo, giusto per ascoltare a voi, ok? Io ti sto dicendo che dal 1962, Claudio Sparviero fa radio, ho una patente da radioamatore, non me la devo giocare, né per le parolacce, né per i chiaramenti e né per le crociate che dicono nei canali, ok? voi, che sia Luca, che sia Gianni, che sia Natalino, che sia Carlo Spaziero, questo è il vostro generale. Io a questi livelli radio non mi so fare. Punto e basta. Voi, che sia Luca che ha creato Valvoli, che sia Gianni, che sia Natalino, che sia Claudio, per fare nomi, a me non mi interessa. Le cose che a me mi sono arrivate all'orecchio, come arrivano a te, so che si informa, e da dove si informano, io so tutto, Luca, perché informazione informa anche a me, chi parla con te parla anche con me, perché a me mi conosce, i punti mi bruciano, mi conosce da lunghi, veramente da lunghi, capisci? Quindi non se avete trovato a mio fratello, qui e là, se avevamo trovato a tuo fratello, lì dove stai parlando tu, io penso che Lucasino, questo telefono che non è più. Questo però posso dire con molta tranquillità perché conosco a Carletto, conosco a Stefano, molto meglio a Carletto che a Stefano e comunque l'altro figlio, con il metodo tra Deli e perché tanto il primo giorno, te lo dico in modo grossato, il primo giorno che io sono a Carletto con lo so perché di questo discorso che noi due stiamo facendo, io lo dico, non pensare che non devi dire. Se Carletto ti dice qualcosa, sappi che te lo vesti glielo vesti, tanto un battaglino, ma sono informativo te lo sto dicendo, senza polemiche, senza niente, non si mangia nessuno, qui e là, qua non si teme nessuno, qua si fanno le persone grandi, si fa l'uomo, si fa radio, non si buona portanza, per un microfono, non si diventa una doccia, poi va riportata diversamente, mangi la luce. Io radio così non ne faccio, sono radio amatore, ho una patente di stato, non me la voglio giocare per i cazzi vostri, in generale, punto e basta. Dunque, quindi voi ti fai di viaggio a Carletto. Non mi ero casa quando c'è sonno, assolutamente. Ma no, come, io non posso riferire. Però io rispetto. Ho fatto i miei errori e li ammetto, non c'è problemi, ho fatto parolacce, e quando c'è, non metto l'antenna, non metto guarda, la confezione, per fare la palacchino, poi mi ascolta, perché ti reportaggi, la capisci di Claudio. Guarda, rispetto, non stiamo approfittando adesso che non sto disturbando, perché se continuiamo a disturbare, la vita tutto è incazzato. E devo stare tranquillo, pacifico, non c'è problemi. Tutto qua. E questo è stato semplicissimo in viaggi. Edu, chiama la mia, a parte lui non si abita più qua. E lui chiama la mia che c'entra. E se vogliamo neanche mi svele. Comunque, qui c'era un questione lì, stato per capello. Non so se c'è un questione, Stefano. Non so se c'è un questione. Questo questione vale per te e per tutti quelli che ci sono qua. Non sto parlando solo con Luca, io. Sì, io lo so, però se non ti dire qualche cosa, qui c'è un controllo, capita, siamo qui per gli stessi. Bene, ciao, ciao a tutti, Luca, vediamolo qua, Vittor, le freni, fai girare, andate pure, andate lì. Non c'è problema, ripeto il controllo, non c'è problema, vedi, comunque, chi mi vuole trovare, lo farò gratis. Grande, ripeto. Cade l'ascolto. ma che ho, ce l'ho, ripeto, la sto approfittando, perché negli anni passati... Che importante, fortissimo, oh, non ricordo più da chiudere. Thank you.